Intanto le sentenze ad oggi sono quattro, perché c'è la sentenza di Firenze, che è stata la prima, due di Bologna e una del Tribunale di Genova, e dicono tutte e quattro la stessa cosa, cioè che il decreto Salvini non ha vietato e non vieta per le persone richiedenti asilo di ottenere la residenza anagrafica. Non è scritto questo, e nonostante il ministro continui a insistere, perché ha inviato su questo punto anche una circolare a tutti i sindaci d'Italia in cui si dice che non si dovrebbe concedere la residenza alle persone richiedenti asilo, in realtà la legge questa cosa non la dice, perché la legge dice due cose. La prima, che abroga una procedura semplificata che esisteva precedentemente a questa legge, cioè sostanzialmente prima non c'era nemmeno bisogno che il richiedente asilo andasse all'anagrafa a chiedere la residenza, per lui lo faceva direttamente il responsabile della convivenza, perché i richiedenti asilo venivano inseriti in strutture, in progetti, i famosi progetti SPRAR, per cui era proprio necessaria la residenza, perché una volta inserito nelle strutture SPRAR, il richiedente asilo o studia, quindi ha bisogno della carta d'identità, quindi o frequenta dei corsi, oppure lavora e quindi ha bisogno della carta d'identità. Infatti in Italia i richiedenti asilo, i cittadini, non li hanno mai visti in strada, proprio per questo motivo, perché avendo immediatamente la residenza o studiavano o lavoravano, e in più il 70% delle persone che usciva dall'ISPRAR aveva già casa e lavoro, quindi era proprio un modello di integrazione molto molto avanzato. Tra l'altro consentiva a queste persone, che devono aspettare in Italia almeno 2 anni prima che la commissione decida sulla loro richiesta di asilo, di vivere in questi 2 anni normalmente, regolarmente, in maniera anche controllata, no? Perché poi la residenza, l'iscrizione alla garanzia serve anche a controllare le persone, nasce per questo motivo e per quello che è di competenza il Ministro dell'Interno. Quindi il decreto Salvini cosa dice? Non vieta la residenza ai richiedenti asilo, dice: uno, si abroga la procedura semplificata. Se si abroga la procedura semplificata vuol dire che il richiedente asilo la residenza la deve andare a chiedere lui direttamente all'ufficio anagrafe, non è più il responsabile della struttura che la chiede. Due, dice che la richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica. Su questo noi abbiamo notato, ma anche tutti quanti i giudici che fino adesso si sono occupati della questione hanno notato, che non esiste nella nostra legge anagrafica il termine titolo. Non ci vuole un titolo per chiedere la residenza. Anche tu, quando chiedi la residenza, non è che devi mostrare un titolo. La residenza, la richiesta di residenza è una dichiarazione. Infatti si parla di dichiarazione nella legge, la dichiarazione del singolo che dice: io voglio, chiedo la residenza in questo comune. Quindi quel termine non significa assolutamente nulla. Ecco perché, non vietando la legge la possibilità per il richiedente asilo di chiedere l'iscrizione anagrafica, ecco perché sono state vinte tutte queste cause. Dopodiché, piuttosto che proclami, come ho detto anche in conferenza stampa, a noi piacerebbe molto confrontarci nel merito con l'Avvocatura dello Stato, perché nel merito, ogni volta che andiamo a discutere queste cause, viene fuori il nulla, cioè sono costretti ad ammettere che non c'è un divieto di richiedere e ottenere la residenza per i richiedenti asilo. E l'altra cosa che viene da dire è che non serve additare gli avvocati o le associazioni di volontariato o i giudici che si occupano di queste cose, non serve a niente, perché la lista di proscrizioni si dovrebbe allungare tantissimo, perché ci sono già diverse associazioni, diversi avvocati e diversi giudici che si occuperanno di questa vicenda. Per esempio, come avvocato di strada, ci saranno molti ricorsi in tutta Italia, perché presso altre sedi, presso altri tribunali in tutta Italia, noi chiederemo l'iscrizione anagrafica per le persone richiedenti asilo. Quindi questa cosa non serve, anche controproducente, non ci aiuta nel dibattito nel merito indicare un giudice piuttosto che un altro. Saranno tantissimi, la lista di proscrizione dovrebbe essere molto molto lunga, ecco. Però diciamo, forse l'impressione un po' anche rispetto a quello che ridicevi tu prima, che ci eravamo detti anche in altre interviste sul tema di come il decreto sicurezza non vieti appunto l'assegnazione della residenza ai richiedenti asilo, anche perché non potrebbe vietarla, però ci sono state un po' di azioni, proclami, circolari che lasciavano intendere che questa dovesse essere la linea interpretativa in qualche modo. E viene da pensare che forse quest'ulteriore passo nei confronti dei giudici appunto si inserisca in questo solco qua. Certo, infatti il problema è che gli ufficiali dell'anagrafe, essendo in qualche maniera direttamente dipendenti al Ministero dell'Interno, tendono a interpretare la norma sulla base di quanto è scritto in quella famosa circolare. Però la circolare, intanto, nel grado, essendoci una gerarchia delle fonti in Italia, come in tutti quanti gli altri paesi, la circolare non ha il potere di modificare la legge, perché la circolare è fonte sottordinata. Secondo, quella circolare oggettivamente, anche quella circolare non può impedire l'iscrizione alla grafica, serve solamente a in qualche maniera indirizzare gli ufficiali dell'anagrafe, che tendono a non prendersi la responsabilità, tranne in alcuni casi, come per esempio è successo a Crema, di accettare immediatamente l'iscrizione anagrafica. E nel momento in cui otterremo sentenze in tutta Italia, sono stati già depositati numerosi ricorsi, allora a quel punto gli ufficiali dell'anagrafe in tutta Italia dovranno adeguarsi a quella che è la giurisprudenza assolutamente dominante, nel senso che non c'è neanche una sentenza contraria ad oggi. E a proposito di appunto casi che si stanno aprendo in tutta Italia, la conferenza stampa di questo sabato è stata anche un'occasione per presentare il bilancio annuale dell'associazione Avvocato di Strada Onlus. Ti chiederei come ultima domanda appunto qualche dato anche in questo senso. Sì, intanto il bilancio annuale dimostra, al di là di ogni dubbio proprio, che la nostra associazione non si rivolge nei confronti di un ministro o di un governo, qualunque esso sia. Noi ci occupiamo di residenza 18 anni, solo nel 2018 abbiamo affrontato oltre 500 casi di residenza, è indicato nel bilancio sociale, dove puoi vedere sul nostro sito quali sono i casi che noi affrontiamo nel civile, e al primo posto c'è il tema della residenza, che riguarda, diciamo, nella stragrande maggioranza cittadini italiani, ai quali la residenza viene negata dai comuni e dobbiamo intervenire noi come avvocati. La residenza per noi è la madre di tutte le battaglie, è il nostro primo ricorso che abbiamo fatto dopo due mesi, neanche un mese, che era stata presentata all'associazione Avvocati di Strada, perché noi siamo nati come associazione, a progetto è stato presentato a Bologna nel 2000, gennaio 2001, primo caso allo sportello fu un caso di residenza e fummo costretti a fare ricorso nei confronti del comune di Bologna, perché questo è proprio il problema fondamentale, la residenza per le persone senza dimora, per chi vive in strada, proprio perché senza residenza si è invisibili, non si ha nessun diritto, non si può lavorare, non si può aprire una partita IVA, non si può usufruire del servizio sanitario nazionale, quindi non ci si può curare, non si può usufruire del welfare locale, non si può usufruire di quelli che sono i diritti previdenziali, e senza residenza sostanzialmente non si esce dalla strada, ecco, non si esce, si rimane in strada. Quindi per noi è la battaglia principale, e in questo caso è un tema che è venuto fuori da questa nuova normativa, ma l'abbiamo affrontata nei confronti di tutte le amministrazioni di qualsiasi colore politico, perché non è quello il punto, non è contrastare o non contrastare un decreto perché l'estensore si chiama Salvini piuttosto che un altro. Il tema è far accertare dei diritti in favore delle persone più deboli, che sono coloro che si trovano in estrema difficoltà e vivono in strada, oppure ovviamente in questo caso per le persone richiedenti asilo che vivono in delle strutture. Quindi primo tema fondamentale anche per il 2018, la residenza. Poi ci sono tutta un'altra serie di cose che si possono notare, per esempio che noi siamo effettivamente diventati ormai lo studio legale più grande d'Italia, siamo presenti in 54 città italiane, le più grandi città italiane, siamo arrivati ad essere oltre 1000 volontari, ogni anno difendiamo migliaia di persone, 3.945 persone difese solo nel 2018, e che magari insieme a questa attività di tutela individuale noi cerchiamo anche di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema povertà, perché sta passando un concetto per cui la povertà è una colpa, e se il soggetto è diventato povero in qualche maniera è colpa sua, e siccome una colpa magari deve anche essere punito e quindi può essere picchiato, insultato, deriso, malmenato, mentre la povertà è invece uno stato, su una condizione in cui chiunque di noi potrebbe trovarsi, e cerchiamo di farlo con decine e decine di iniziative. Nel nostro bilancio sociale sono descritte le iniziative che abbiamo portato avanti lo scorso anno, con riunioni all'università, con lezioni nelle scuole, con giornate di approfondimento insieme a giuristi, professionisti, quindi insieme agli ordini professionali, con mostre, con iniziative in piazza, e anche questo insomma una cosa molto importante. E l'altra cosa che vorrei, per esempio, rispetto alle amministrazioni, no? Perché quando poi il tema è che la povertà è una colpa, anche le amministrazioni purtroppo si sentono in dovere di colpevolizzare i poveri. L'anno scorso abbiamo impugnato un'ordinanza del comune di Carmagnola con ricorso straordinario al capo dello Stato, l'abbiamo impugnato. strada, il comune di Carmagnola, che vietava alle persone che si trovavano a Carmagnola di chiedere l'elemosina, ma non l'accattonaggio molesto, che è un reato, è vietato dalla legge, no, le persone che si sedeva tranquillamente senza infastidire nessuno e chiedeva l'elemosina, un divieto assurdo, perché non si può vietare a una persona di chiedere aiuto. Non so se è presente, a Bologna ogni giorno all'angolo di Via Orefice, alle 2, se passi da là, vedrai una persona che gestisce un'opera milionaria e non avrebbe certo bisogno di star là. Quella persona si chiama Padre Degani e chiede l'elemosina per un'ora, lì in silenzio. E prima di lui lo faceva Padre Marella, che adesso è in fase di beatificazione. E sarebbe come multare una persona del genere, sequestrandogli anche i mezzi utilizzati per chiedere l'elemosina, no? Cioè il cappello o il bicchiere di carta. È questa assurdità che noi cerchiamo di contrastare. Questa mentalità secondo la quale il povero va scacciato o va nascosto, non si deve vedere, ma è meglio che vada da un'altra parte, magari nel comune di fianco.